24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. E avanti, quasi tutti i comuni che andranno al ballottaggio. Occhio, Civati! Perché state vincendo! Non sarebbe. Non sarebbe l'ora di chiamare Bersani? Perché stavolta rischiate. Vabbè, no, questa è la Crozza, il PD no, avanti comunque, in tutte le città e quindi non è il caso di chiamare Bersani, dice Crozza. Buongiorno, cari ascoltatori, questo è 24 mattino. Oggi c'è il nostro Alessandro Longoni qui dalle 6 e il nostro alpino Peter Bescapè sempre lì pronto in regia. Che dire, c'è anche il numero per i vostri messaggi se volete, eh? Fateci sentire che siete svegli in questa uggiosa e piovosa, stranamente, Milano e in tutta Italia invece, come va? Cioè, avete voi, sapete come è fatto il sole fuori Milano? Perché qui da 792 giorni piove consecutivamente. 349-238-6666 per i vostri messaggi, apriamo il nostro Parlamento, nonostante piove, o piova, o piovigina, o piovigini. Nicole Minetti è sempre qua a offrirci il caffè. E allora voglio salutare subito Paola Saluzzi con un gran sole a Roma, immagino. Che sole c'è a Roma, dai, fammi subito. Allora, è tutto grigio e io ho dovuto tirar fuori la vestaglia invernale perché fa freddo. Paola Saluzzi, in questo momento ve la potete immaginare in vestaglia invernale. Sì, coperta, siamo un po' Garibaldi sulla Scila. Questa cosa. Un po' così. Noi ti vediamo su Sky TG 24 pomeriggio, ma in questo momento ecco anche con il direttore Vanity Fair, Luca Dini. Buongiorno. La immaginiamo in vestaglia invernale, così. Qui, no? Qui in Bocconi c'è il sole. Alla Bocconi c'è sempre il sole. Fino a 3 mesi fa sulla Bocconi splendeva un sole perenne e imperituro e intramontabile, ovvio, cioè, sulla Bocconi, si sa. Insomma, arriverà l'estate prima o poi, via. Sì, ma ci accontenteremo anche della primavera, adesso non è che non chiediamo tantissimo. Allora, carissimi, oggi a leggere i giornali è partito il gran processo a Beppe Grillo. È così. Devo dire una cosa. Io sono un pochino arrabbiato con i giornali. Adesso faccio una cosa alla Grillo. I giornali di regime. Perché sia il Corriere Repubblica titolano questa cosa, che Grillo non ha mai detto così. La colpa è degli italiani. Non è che ha detto proprio la colpa, ha fatto un'analisi parziale, di parte, della sua parte del voto, dicendo che capisco tutti quelli che hanno votato il sistema e li ha identificati, sono i dipendenti pubblici, i pensionati, quelli che hanno il posto sicuro e quindi vogliono o non vogliono cambiare, no? Luca Dini li ha identificati così, ma non è che ha detto è colpa degli italiani, però i giornali... No, è vero, però non può dire nemmeno quella cosa lì, perché quando lo avevano votato gli andava bene, dai, non ha senso. Sì, ma forse non ha senso, però insomma è la sua analisi, cioè lui, secondo lui, ripeto, è la sua analisi parziale, di parte, condivisibile o no, chi se ne frega, però non è che ha detto, no, Paola Saluzzi, non è che ha detto gli italiani hanno colpa a non avermi votato, ha identificato alcune categorie che secondo lui sono quelle che hanno lo stipendio sicuro, i pensionati. Ecco, secondo lui. Perché sì, secondo lui, che, certo. Certo, insomma, secondo lui. Ha dato una visione assolutamente personale della cosa, però tanto sono certa che adesso con la sua con il suo arrivo in televisione, perché comunque è stato detto da più parti che ora si farà vedere più spesso, avrà modo di chiarire attraverso interviste che non fossero gli italiani ma solo determinate categorie. Secondo me è sempre rischioso, perché tu non sai chi abbia votato quella linea o quell'altra, no? Ecco, quindi mettere le persone nei cassetti è sempre molto così, insomma. No, ma questa sì, è una sua idea è questa, cioè a fronte invece dei cassi integrati, delle piccole e medie imprese che muoiono, degli studenti, dei precari, dei lavoratori autonomi, secondo lui quelli sono quelli che votano 5 Stelle, mentre quelli che hanno il culo tranquillo sono quelli che non lo votano. Però non è che sembra una bagella, però, insomma, un po' e su questo sono d'accordo con te. però, ripeto, non, no, ha, vabbè, non ha detto come titolano oggi i giornali la colpa è degli italiani. No, ha fatto questa analisi. Ma così potrà finalmente continuare a prendersela con i giornali? Eh sì, infatti. Luca Dini, tu come lo trovi? Luca, tu sei sulla blacklist di Beppe Grillo o no? Vanity Fair? Beh, come? Io sì, mi ci sono messo da solo. Diciamo. Come ti ci sei messo da solo? Ah, vabbè, certo, tu hai è vero, no, ti devo chiedere questa cosa. Tu hai intervistato la persona che aveva perso, no, tutta la famiglia, tu nel senso Vanity Fair, hai intervistato la persona che aveva perso la famiglia in questo incidente. Ci sono stati sviluppi? Cioè Beppe Grillo si è mai fatto vivo con questa persona? Non lo so onestamente, anzi, ora che me lo dici è una cosa che, cioè, fino a poco tempo fa no, ma comprensibilmente, devo dire anche giustamente, non aveva fatto, diciamo, niente di furbo, ecco, questo onestamente. No, no, questo sì. Poi farlo magari dopo quell'intervista sarebbe apparso un po' sì. Strumentale, un po' così, però effettivamente da quel momento sei segnato. No, però a parte scherzi, non siamo solo, cioè la blacklist comprende tutti, quindi non è successo niente, non c'è stata nessuna ripercussione, nessuno ci ha mai chiamato per dire che cosa avete fatto. Ma poi non esiste questa, almeno dicono che non esista questa blacklist, insomma, diciamo che il rapporto è un po' così. Tu Paola, come sei con... Ma io credo che, insomma, tutti noi aspettiamo più o meno, più chi meno, chiaramente, di poter avere un'intervista, di poter dialogare con questo signore, adesso al di là di tutto. Ah, cioè tu hai punti di intervista proprio a Beppe Grillo? Che sei matta, cioè punti in alto te. Proprio a lui? Ma se non si punta all'Everest, poi a scalare il mondo, piano piano, eccola lì. Aspetta la volta, no? E quindi insomma lo aspettiamo. Lo aspettiamo. Per ascoltare, per mettersi uno di fronte all'altro a dialogare. Tutti che prendono Beppe Grillo. Detto che tra l'altro i giornali oggi raccontano, secondo il Corriere ci sono 10 che stanno uscendo, secondo Repubblica sono già 30 del Movimento 5 Stelle che starebbero in dissidenza. Ecco, quella sarebbe la cosa interessante da capire. Ma succederà prima o poi. Insomma. Chi si vuole spostare in un gruppo misto, chi vuole creare evidentemente altro tipo di carriera rispetto a quella di... cittadino 5 Stelle all'interno del Parlamento, farà altro tipo di carriera, però non bisogna neanche fare il de profundis di un movimento che giustamente, guarda, tutti gli scossoni fanno bene, perché così dagli scossoni poi, sempre io spietata ottimista, si costruisce qualcosa di più bello, qualcosa di più grande. Intanto tu Paola sei andata a votare a Roma? Sì. Assolutamente sì. Sentiamo Fiorello come vede la disfida Alemanno Marino. Alemanno, cosa canta? Cosa canta Alemanno? Canta questa, via! Guardo le proiezioni e sei in testa a te. Ma non so perché l'alluvione delle ele sono toccate a me. Mo vuoi vince te, Ignazio Marino. E vabbè, questo è Fiorello. Io sono ancora Luca Dini, sono abbastanza allucinato dal fatto che un romano su due non si sia recato alle urne. C'è sempre il ballottaggio per votare il sindaco, ma insomma, se uno non va, ripeto, sono due giorni, se uno non va neanche a scegliere il sindaco, ma che serve la politica? Cioè, è lì che sbaglia Grillo. Il problema non sono quelli che sono andati a votare e non hanno votato lui. Il problema sono quelli che avevano votato lui e non sono andati a votare. Bravo Luca, è vero, ha ragione direttore. No, però è abbastanza incredibile che voglio dire... È singolare che una città come Roma decida... Ma va, la città più importante d'Italia, ma il sindaco... Io ieri sera ho messo su Twitter una immagine significativa. Arrivo su Via Laurentina e trovo scritto al semaforo sul muro Roberto Pruzzo, sindaco. Grande Roberto Pruzzo, grande bomber Roberto Pruzzo, grande il bomber, vabbè, insomma. Secondo me quel signore non è andato a votare. Ecco, no, o forse è andato a votare e ha scritto Roberto Pruzzo, Roberto sindaco, siccome qui c'erano le fette di mortadella. Siamo i nipoti di Pasquino, questo è il problema. A proposito di Bruzzo, anzi Bruzzone, sì. La criminologa. Sì. È una soddisfazione che, diciamo, i vari cosiddetti candidati VIP siano stati tutti trombati. Sì, sì. Sì, ecco qua mi viene una battuta, però perché tu hai detto trombati, perché anche Cicciolina si canta. Cioè, no, vabbè. No, vabbè, ho capito, però cosa dovevo siamo fare? usciti dalla notte, ma siamo in No, ho fascia comunque, capito, probabilmente Paola, ma cosa dovevo fare? Cioè, trombati politicamente, Cicciolina si è candidata e non ce l'ha fatta, ecco, mettiamo così. Anche la Roberta Bruzzone, la criminologa, io ho scoperto, quando ho scoperto che non ce l'ha fatta, cioè, ho saputo che si era candidata. Che c'hai Luca Dini? Si è arrabbiato con l'Abruzzone? Ti ha Ma no, fatto ma dai, è ridicola questa cosa, non funziona più, non ci crede più nessuno a dare il voto a una persona semplicemente perché la in vedi TV? una sera sì e una no da Bruno Vespa, dai, assurdo. Boh, chi lo sa. Tu come, Paola, come te la sei cavata con il metro e 20 di schede elettorali? Cioè, Allora, io ho da raccontarvi questo. Gente che Si vota. piegava, Si gente vota che. un signore Sì. nelle varie aulette, nelle varie aule, no, della scuola elementare. Oh, ma che ci avete dato? E faceva dei rumori inconsueti e inconsunti con la carta. Sentiva. Mi ricordo che faceva: signore, per favore, se può uscire dalla cabina, però mettendo la scheda pancia sotto, Sì. così io non vedrò quello che lei ha votato. Ma come si piega Con sta roba? questo che usciva con la lenzuola, sai quando si piegano le lenzuola in due a casa con la moglie? Ecco, tu tieni l'angolo, io chiudo così. Tira, tira, Più tira, tira, o come meno faceva la così. mamma o la nonna, no? Tira, tira. Cioè, io ho sentito questa cosa, sono sbottata a ridere senza alcun ritegno, perché era 1,20 m. 1,20 m. Cioè, pochi centimetri arrivavamo alle vecchie mattonelle della cucina. Sì, esatto, 1,20 m, Luca 100 150 Dini, meno male che a Milano questo non l'abbiamo mai visto, 1,20 m, forse così no. Almeno quello ce l'hanno risparmiato. 24 mattino. Milano. È la fine del mese, c'è l'officina che è piena di scemi lavorati lì, del ferro da soldare. Dai, mandami qualcuno di quei ciaccaroni lì che c'hai lì in giro tra politici e quelli lì che sono lì ospiti tuoi. Se mi aiutano ad arrivare alla fine del mese faccio un bel fatturato, magari dopo il caffè lo pago io a tutti. Milan, io avevo votato il Movimento 5 Stelle, adesso non lo rivoterei, e sai perché? Perché ci hanno consegnato ancora Berlusconi. Se loro avessero fatto il governo con gli PD, non saremmo arrivati a questo punto. Hanno perso la loro credibilità. Sì, Milan, buongiorno. Io ce l'ho contro Paola Saluzzi, guarda, col superbenismo il mercoledì, pipipipipipi, va tutto bene, i politici vanno difesi, ma non se ne rendono conto che questa classe dirigente di destra e sinistra hanno rovinato due generazioni di giovani e non bisogna prendere i fucili? Questa classe dirigente è peggio dei tedeschi e degli austriaci. Altro che fucili, qui ci vogliono le bombe, ci vogliono per le valle di torta. Capito? Mi hanno detto, componi questo numero, vedrai che potrai dire tutto quello che vorrai. Io però non ho ancora capito chi siete, come funziona il vostro sistema. Ogni modo, non so, cosa potrei dire? Che in 2 anni di giunta Pisapia a Milano è peggiorata notevolmente? Potrei dire che è una vergogna che il mostro di Niguarda mangia, beve, fuma, dorme e ce lo dovremo mantenere noi per i prossimi non molti anni, 3-4, tanto l'hanno già fatto passare per pazzo. Ho detto cose banali, lo so, però è anche bello poterle dire. Non so, devo aspettare qualche segnale, chiudere, cosa devo fare? Salutarci signora, grazie, grazie. Ha capito forse, chissà se ha detto il mio. Che gli ha detto di fare sto numero? Non lo so, qualcuno. Oh, Paola Saluzzi, Allora, nella prima parte mi sono divertita perché se il signore pensa che io faccio il perbenismo del mercoledì, va bene, mi assumo le mie responsabilità, forse sono Difendi troppo politici, difendi lineare. politici. Per quanto concerne il resto, brutto bombarolo. Sì, Siccome ieri era l'anniversario di Piazza della Loggia a è vero, Brescia, è vero. dovunque lei sia, si vergogni, perché non si prendono le bombe, non si prendono i fucili e se vuole fare la guerra agli austriaci, prenda la macchina del tempo e se ne vada nel 1860. Oh, avete visto? Luca Dini, il Perché sono perbenismo, quelli che hanno saltato il con le perbenismo, bombe, che hanno saltato con le bombe. è Ma vero. incontriamoci sotto casa, ti faccio vedere chi rimane. Oh! È il problema del momento. Sì. Confondere l'essere per bene con il perbenismo. Mamma mia. No, ma però mamma, ringrazio direttore, ma è proprio, cioè, la bomba, ma siamo, ma questo quando è saltato l'Italicus, dov'era? Sì, sì, no, no, ma vabbè. Io... La deriva, per carità, la deriva finale, no, sì, ci vogliono i fucili e le bombe, per carità, ma la gente, secondo me, lo dice perché gli si inserisce un attimo il virus della stupidità, due minuti, allora sì, si sfoga. Però sai, questa piripipiripi mi piaceva, eh. Piripipiripi, sono bellissima. Piripipiripi, di essere meno piripipiripi. Allora, io ho qua il numero di Vanity Fair e devo dire, stavolta vince Paola Saluzzi. Io non è che, però ti dico un nome, Bradley Cooper. Tu sei FM? No, okay. Direttore, è svenuta. grazie direttore Luca Dini, grazie. Il mio amore italiano, il nuovo sex symbol di Hollywood. Però in realtà, ecco, quello che io leggerò è invece una cosa molto più seria. Complimenti, Vanity Fair, siete riusciti a intervistare uno dei figli di Andreotti. Torna se può. Uno dei figli di Andreotti. Che attenzione! Noi partiamo così, facciamo sentire la famosa frase di Andreotti che disse di Ambrosoli, se l'è andata a cercare, per cui il figlio Umberto Ambrosoli è uscito dalla commemorazione del Consiglio regionale della Lombardia. Vi ricordate Andreotti che disse così? Secondo lei, perché Ambrosoli è stato ucciso? Questo è molto difficile, io non voglio sostituirmi né alla polizia né ai giudici. Certo era una persona che in termini romaneschi direi se l'andava cercando. Luca Dini, è vero che poi Andreotti chiese scusa alla famiglia di Ambrosoli per questa frase, però la frase centrale dell'intervista al figlio di Andreotti è questa: che Umberto Ambrosoli ce l'abbia con mio padre è più che comprensibile. È una frase forte da parte del figlio, direttore. Sì, il figlio dice anche che il padre non era lucido quando disse quella frase, non era più l'Andreotti. Io penso che sia una, cioè, capisco la sua difesa del padre. Penso sia onestamente un modo un po' riduttivo di, anche perché Ambrosoli credo ce l'avesse con Andreotti non solo per quella frase, ecco. No, certo, per quello che considera, insomma, i motivi che hanno portato all'uccisione del padre, certo. Poi quella frase forse è stato, come dire, il classico coltello nella piaga, no? A me però quello che ha colpito di più dell'intervista è la parte in cui si descrive la reazione del padre ai processi, diciamo, perché abbiamo sempre pensato da fuori tutti che Andreotti fosse una persona che reagiva in modo freddo, quasi impassibile a quella tempesta lì, e lui lo descrive invece come una persona che era imbottito di psicofarmaci, ridotto molto male. Sì, lo dice, lo trovavo in poltrona a dormire imbottito di psicofarmaci, quando invece sembrava all'opinione pubblica indifferente. Certo che devo dire, che rabbia vederlo soffrire così. Questo è il titolo dell'intervista, Stefano Andreotti, uno dei figli di Andreotti. E Paola è sempre lì, cioè io sempre Andreotti, adesso ne abbiamo parlato i giorni scorsi, perché gli spetterà €1 milione, spetterà questo agli eredi di Andreotti, come il TFR, sai che il TFR, sì, di fine, va bene, dopo 65 anni di Parlamento. Vuoi dire una cosa non pipipipipipi contro su Andreotti? No, non ci penso proprio, mi dispiace, così vediamo. Guarda, col signore che è di Calata Toscano, o diventiamo amici oppure ci meniamo per strada, detto alla romana. Piripipipipi su Andreotti non lo voglio dire, vabbè? No, vabbè. No, invece voglio dire una cosa parapà, sì. Però si tratta del vecchio numero di Vanity Fair. Sì. Ribadisco, anche ieri su Twitter l'ho messo, 110 e lode, perché la pagina era la 110, la storia di Angelina Jolie commentata dalla formidabile Wondi, e la storia del coraggio di questa donna di sottoporsi alla mastectomia commentato da una donna eccezionale. Ecco, quello, direttore, quelle sono le pagine che vogliamo sempre trovare, perché nelle mille notizie, nelle mille cose importanti, belle, glamour, tutto quello che vuoi, quella pagina io l'ho strappata e me la sono conservata. Vabbè, allora adesso hai fatto per i pipipi su settimana scorsa. Che dobbiamo fare? E qua cosa avete fatto? Ah no, sì, c'è una specie, lo so, noi qua si ride, il clima è anche questo, si scherza, eccetera. Però giustamente, Luca Dini, avete fatto anche un focus su due ragazze, l'ultima Fabiana uccisa in questo modo brutale. è un qualcosa sulla quale non è che ci sono grandi commenti, forse solo leggere, informarsi. Io quando leggo tutti questi psicologi che fanno l'analisi eccetera, mi vengono due maroni così, ecco, diciamo la verità, cioè, piuttosto voglio leggere, voglio vedere i volti, voglio vedere i racconti di queste storie. Dire, l'ultima cosa che si vuole sapere è che questa insomma, questo massacro è figlio di un disagio o cose del genere. Quelle sono veramente. Ma esatto, sono quelle analisi che vengono fatte a 7000 km di distanza da persone che non sapevano neanche chi fossero queste persone uccise. L'unica cosa da sottolineare, Paola, è che la camera come era 2 giorni fa quando si parlava del femminicidio, com'era? Vuota, vergogna. E poi dopo ci vengono a fare la questione, le questioni. C'è il problema, Alessandro, direttore. Nessuno ha pensato, questa è la cosa più dolorosa, che quella sedicenne potesse essere la propria figlia. No, perché vero, loro lì una vuota non l'avresti lasciata. C'è da dire, non è che lo dico per correttezza giornalistica, c'erano quelle del Movimento 5 Stelle, in genere su quello almeno non si possono criticare, sono sempre lì in aula. Comunque devo chiudere con questa notizia, è stato archiviato il Porcellinum, possiamo dire non ce l'hanno fatta. Che miseria fa la riforma elettorale, manco sta settimana decisiva, mi sa che finirà senza risultato. Grazie a Paola Saluzzi, grazie a Luca Dini, direttore di Vanity Fair, che trovate il nuovo numero oggi in edicola, Bradley Cooper in copertina, così le donne saranno felici. Giornale Radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. E allora siamo qui alle 7:21 minuti, tra qualche istante. Ben ritrovati, cari ascoltatori, dopo il nostro barlamento che è aperto dalle 6:30 alle 7. Siamo pronti ora a leggere i giornali, se siete arrivati in questa straordinaria giornata di pioggia a Milano e di sole, forse dove siete voi? A Milano sicuramente no, come ricordo, ormai portano i bambini al planetario per vedere come è fatto il sole qui a Milano. Comunque, di che parleremo tra un'ora nel nostro approfondimento con gli ospiti? Siete anche voi persone che siete passati dalla sigaretta alla sigaretta elettronica, come si chiamano? Svapano, svapatori, io non lo so, ma insomma lei... arriva, tranquilli che arriva. La tassa, arriva. Per ora non ce l'hanno fatto, ma arriva la tassa sulle sigarette elettroniche, prima o poi vedrete. Che ne pensate? Parliamo di questo, una nuova tassa, tassare il vizio, ma è un vizio? Beh, molti italiani hanno lasciato la sigaretta per la sigaretta elettronica, allora si dice, sì, lo Stato ha perso una valanga di soldi, di gente che comprava le sigarette non lo fa più, e quindi è giusto tassare. Altri dicono, ma no, non è la sigaretta, e poi c'è questa moda, appena un bene di consumo diventa diffuso, ecco che si tassa. Comunque la pensiate, ditecelo, poi ne parleremo. Alle 8:15 anche con le vostre telefonate. Ora l'approfondimento con la lettura dei giornali. È mercoledì 29 maggio, sì, non leggevo bene la data, sì, è il 29 maggio. E allora intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre sulla finanza, sulle borse, bond in rally globale, tassi BTP ai minimi in asta, questo è il titolo di prima pagina. Il processo di dopo voto al Movimento 5 Stelle, questo è il tema politico del giorno più sviluppato dai vari quotidiani. Grillo, la colpa è degli italiani, così titola il Corriere della Sera, e Repubblica, Grillo sconfitto, colpa degli italiani. Peccato, come io ho detto, ma poi magari approfondiremo, che non abbia detto assolutamente così colpa degli italiani. Infatti ci sono altri giornali che titolano in maniera più incline a quello che ha detto Grillo. Per esempio il Secolo XIX, Grillo ha vinto l'Italia dei peggiori. Ecco, questo ha detto, che è ben diverso da dire colpa degli italiani. Comunque La Stampa invece, l'Europa dà i compiti all'Italia, Il Messaggero ha un'intervista a Renzi che dice ai grillini ora collaborate, questo è il titolo di prima pagina, L'Unità, il voto sveglia la sinistra. E poi c'è un libro, di cui adesso parleremo subito, che un libro che esce domani per Chiare Lettere, che conquista ben 4 prime pagine dei giornali. Sono le confessioni di Luigi Bisignani. Iletta, Alfano, De Bortoli, le trame di Bisignani, così il titolo del Fatto Quotidiano, oppure il giornale Parla l'uomo dei misteri, da Scalfari al Corriere della Sera, dalla Finanza al Parlamento, il lobbista Bisignani svela la sua storia d'Italia. Libero, il libro che svela gli altarini d'Italia. Vedete, 3 quotidiani aprono su questo libro, che allora andiamo subito a scoprire di che si tratta. L'uomo che sussurra i potenti, esce appunto domani, Luigi Bisignani, intervistato da Paolo Madron, una lunga intervista, confessione per quest'uomo che, come racconta Franco Bechis su Libero, è stato dipinto in tutti i modi, faccendiere, piduista, piquartista, uomo dei servizi, promotore di carriera ovunque, politica, finanza, forze armate, Vaticano, certamente giornalista. Di Luigi Bisignani, Luigino per i potenti della Prima Repubblica, Gigi per gli amici che gli sono rimasti, si è scritto, detto, intercettato di tutto. E allora Paolo Madron, direttore di Lettera 43, ha trovato una chiave nuova, azzeccata, una lunga intervista che è diventata un libro, L'uomo che sussurra ai potenti. Ci trovate anticipazioni sui giornali, perché? Perché è uno spaccato dell'Italia potente, davvero potente, attraverso il racconto, ovviamente da verificare, ma insomma sono i suoi racconti, attraverso la voce di Luigi Bisignani, re dei lobbisti, ecco, anche lobbista così è definito. E allora qualche anticipazione, Libero, ovviamente ogni giornale sceglie delle 300 e rotte pagine di porre il focus su alcuni dei personaggi raccontati da Bisignani. Per esempio Libero sceglie Andreotti, di Giulio Andreotti sono molti ricordi, come quelli della sua mania sulla puntualità, fissava sempre il Consiglio dei Ministri alle 8:59 del mattino. Solo che gli davano buca De Michelis, Martelli e Renato Altissimo, che facevano le ore piccole in discoteca. E ancora Berlusconi inedito, un Berlusconi segreto nei racconti di Bisignani, quello come quello dell'incontro combinato a Palazzo Chigi con l'uomo più ricco del mondo, il messicano Carlos Slim, azionista di Telecom. Arrivati nel salottino che faceva l'anticamera, vedemmo uscire Luisa Todini. Slim, piuttosto compiaciuto, bisbigliò: gran cica guapa. Davanti all'uomo più ricco del mondo, Berlusconi volle fare il classico bauscia, si fece portare da un commesso un libro fotografico e disse: questa è l'ultima villa che ho costruita ai Caraibi, la consideri sua quando ci vuole andare. Ma Slim rispose: grazie, ma per me è troppo grande, tranne che con figli e nipoti non saprei proprio come riempirla. E poi i congiurati per Bisignani in questo libro sono Angelino Alfano e Renato Schifani, i veri traditori di Silvio Berlusconi. Ripeto, questi sono tutti racconti ovviamente di un uomo che ha conosciuto il potere da vicino. I banchieri osè, ci sono anche gli aspetti, come dire, un po' osè, come l'allora governatore della Banca Italia Paolo Baffi, che in una visita a Manila, lui, noto per il rigore e la galanteria, si avviò verso il taxi con una signora. E allora Ercolani e Battaglia, che l'avevano già osservata prima, avevano capito che si trattava di un travestito. E allora Bisignani mi dissero provveda a richiamare il governatore, e Baffi si stava già accomodando nel taxi, gli feci cenno indicando il mio pomo d'Adamo, lui capì e uscì dall'auto. Ma poi c'era anche Enrico Cuccia in un bordello a Varsavia. Ragazzi, ma qua il potere ridotto veramente in pezzettini in questo libro. Enrico Cuccia in un bordello a Varsavia che mentre stava già quasi iniziando insieme all'ex amministratore delegato della Banca Commerciale Carlo Bombieri, va lì e gli dice: ma non è che si saprà in Italia. Questi alcuni dei racconti, ma poi anche, guardate, il Messaggero, dalla congiura PDL agli intrighi IOR, si parla anche del Vaticano. In questo libro racconta Bisignani, Papa Francesco farà, secondo autorevoli indiscrezioni, un repulisti dello IOR, lo trasformerà in una vera banca della solidarietà al servizio dell'evangelizzazione. Anche il Fatto Quotidiano decide di aprire su questo libro in uscita domani, che promette veramente di terremotare gran parte del potere in Italia, e dedica pagina 2 e 3 la versione di Bisignani tra messaggi e amnesie, i racconti insomma del potere. C'è anche dell'Utri, Gheddafi, la foto con D'Alema, zio Letta meglio del nipote, Grillo e gli americani, ecco, c'è questa accusa anche con Grillo che racconta Bisignani, sarebbe appoggiato dai servizi segreti americani, tanto che Libero ci fa addirittura una pagina. Dietro il fenomeno Movimento 5 Stelle ci sono la CIA e Goldman Sachs. Vabbè, domani uscirà questo libro, certamente lo leggerò perché le premesse sono mica male. Voglio dare due notizie velocemente dall'estero, una riguarda anche il tema di cui parleremo oggi, poi alle 8:15. La prima è Stefano Zurlo, riguarda la giustizia e proviene dalla Gran Bretagna, dove c'è l'ipotesi di privatizzare i tribunali, il piano di Londra che da noi è un'eresia. Pagina 15 del giornale, Stefano Zurlo scrive: si mettono ancora in testa le parrucche, ma non hanno tabù. I giudici di Sua Maestà affrontano senza pregiudizi i tornanti della possibile privatizzazione della giustizia. I costi sono stellari, il mondo cambia. Alla fine anche a Londra un tema così complesso e problematico più problematico di un rompicapo viene analizzato con spirito laico. Da noi, figurarsi anche solo cedere a qualche imprenditore un centimetro quadrato del palazzo di giustizia. Succede in Italia che anche solo evocare la separazione delle carriere ci si straccia le vesti, perché questo passaggio minerebbe l'autonomia dei PM. Invece in Gran Bretagna si discute una rivoluzionaria riforma per arginare i costi. Ovviamente c'è il piano A, c'è il piano B, ci sono diversi progetti, c'è chi propone di trasferire ai privati solo gli edifici, chi si spinge più in là immaginando che anche il personale amministrativo di Inghilterra e Galles riceva domani lo stipendio da qualche big dell'industria privata. Insomma, argomento tabù in Gran Bretagna, dice il giornale, se ne parla. In Italia guai. E poi, eccola la sigaretta elettronica, se ne parla ovunque, anche in Francia, come fa sapere La Stampa, con Alberto Mattioli a pagina 19. Le 28 regole decise dal governo francese hanno fatto una commissione per stabilire in sintesi che la sigaretta finta debba essere trattata come quella vera. Dunque, divieto di fumare nei luoghi pubblici, divieto di venderla ai minori, stesse regole del tabacco vero nella pubblicità e così via. La raccomandazione più sorprendente è quella di vietare di vaporizzarsi in pubblico, soprattutto per la motivazione. Dare l'impressione di fumare là dove è proibito, infatti, potrebbe costituire un'incitazione al tabagismo. Così la pensano in Francia. E in Italia arriva la tassa. State tranquilli, che arriva. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, le 7:36 minuti, due giorni dopo, dunque, le elezioni amministrative, il primo turno, sui giornali è tutto un racconto, soprattutto nelle prime pagine, di una sorta di tracollo e di analisi del Movimento 5 Stelle. Questo è l'elemento che viene più affrontato dai quotidiani, la rabbia di Grillo, chi ha votato PD e PDL condanna il paese, è insomma... come scrive il secolo XIX in prima pagina, l'Italia dei peggiori. Questa è l'analisi di Grillo, condivisibile o meno. Certo, ripeto, non ha mai detto quello che è diventato un po' incredibilmente in un cortocircuito mediatico la colpa è degli italiani. Ma Grillo ha fatto un distinguo, cioè secondo lui un'Italia di serie A, quella che ha tutto a posto, i pensionati, i dipendenti pubblici, quelli che sono al sicuro, e quelli secondo Grillo sono quelli che hanno votato i soliti partiti, e invece c'è l'Italia dei precari, dei disoccupati, delle imprese che chiudono, che hanno difficoltà, degli imprenditori in enorme difficoltà, e quelli invece che vogliono il cambiamento secondo Grillo sarebbero l'Italia B, quella che appunto vorrebbe il cambiamento del Movimento 5 Stelle. In ogni caso, ma è davvero questo il tracollo? Beh, è interessante, per il secondo giorno consecutivo vi propongo l'analisi di Roberto Dalimonte e Federico De Lucia, che c'è sul Sole 24 Ore, l'osservatorio politico che trovate a pagina 12. È presto per parlare di declino, questo è il titolo dell'articolo. È comprensibile, scrivono Dalimonte e De Lucia, che la prestazione del Movimento 5 Stelle nei recenti comunali interessi di più del risultato dei singoli comuni in cui si è votato. Un partito che perde nel giro di 3 mesi 2/3 del suo elettorato fa notizia. Però nei 14 comuni capoluogo su 16 in cui il partito di Grillo era presente, sia politica che comunali, i suoi candidati a sindaco hanno ottenuto l'11,3% dei voti. Nel febbraio degli stessi comuni avevano preso il 26,3%. Ma, scrive Dalimonte, se questo è il confronto, non c'è alcun dubbio che si debba parlare di crollo. Ma in realtà, come abbiamo detto, il confronto comunali-politiche è più fuorviante per il Movimento 5 Stelle, ancor di più per loro che per gli altri partiti. Questo perché la competizione comunale è strutturalmente non congeniale ai candidati grillini. Essendo del tutto sconosciuti o quasi, prendono voti solo in proporzione al loro grado di effettivo radicamento territoriale. Quest'ultimo è spesso poca cosa, quasi ovunque pari o addirittura inferiore a quello che caratterizza una tra le tante liste civiche che popolano le nostre schede elettorali. Insomma, scrive Dalimonte, siamo in una fase di tale volatilità e incertezza della politica italiana che occorre fare molta attenzione a trarre conclusioni apodittiche su fenomeni di portata tutto sommato circoscritta, come una tornata di elezioni locali. Ciò premesso, è possibile che altre più approfondite analisi sul voto del Movimento 5 Stelle evidenzino uno scollamento del suo elettorato. Ma, dice Dalimonte, per i vecchi partiti non è ancora certo il momento arrivato di abbassare la guardia. Anche perché tra poco vedremo, insomma, in realtà hanno perso un po' tutti. E hanno vinto quelli che non vanno a votare. Certo, però c'è l'analisi del flop del movimento, come titola per esempio La Stampa. Mattia Feltri intervista Paolo Becchi, ricordate, l'ideologo che ora dice: no, adesso sono proprio del Movimento 5 Stelle, mi sono iscritto, visto che avevo detto alla Zanzara che in Italia poteva finire a fucilate, apriti cielo, tutti a scrivere che Grillo mi aveva estromesso dal movimento, ma non era vero perché non ero iscritto e quindi mi sono iscritto in modo che adesso può cacciarmi. Insomma, comunque, dice Paolo Becchi in questa intervista sulla Stampa, la comunicazione è errata, la rete e le piazze ora non bastano più. Cresce anche il fermento. Secondo il Corriere della Sera, Alessandro Trocino, a pagina 3, ci sono 10 tra deputati e senatori del Movimento 5 Stelle che sono pronti a uscire e a lasciare il gruppo. Una decina di deputati e senatori con Casaleggio nel mirino, questo è il titolo del Corriere. Per Repubblica questi 10 sono diventati 30. Annalisa Cuzzocrea, pagina 3 di Repubblica, ci sono anche le dichiarazioni di Roberto Fico, per esempio, che dice: se davvero 30 vogliono andare via, lo dicano chiaramente piuttosto che parlare alla stampa, abbiano il coraggio di uscire allo scoperto. Se non lo fanno, per il momento siamo al gossip. In ogni caso, questo è il clima, racconta Annalisa Cuzzocrea anche il nervosismo. A un certo punto Alessio Villarosa, del Movimento 5 Stelle, a una cronista che gli chiede cosa pensa dei risultati, risponde così: penso che vi toglieremo i finanziamenti all'editoria. Insomma, il clima, anche i rapporti con la stampa sono abbastanza tesi. Sentite addirittura che cosa dice, secondo me vince la palma della dichiarazione, il Movimento 5 Stelle, Tatiana Basilio, racconta il Corriere della Sera, in una nota scrive o parla comunque di una, parlando del voto, c'è una involuzione dell'umanità. Questo è il suo commento sul voto. Un'involuzione dell'umanità. Tatiana Basilio del Movimento 5 Stelle. Bisogna proseguire nel cammino degli illuminati nella ricerca della verità. Io ricordo degli illuminati solo il libro straordinario Angeli e Demoni di Dan Brown. Non erano bravissimi quegli illuminati. Comunque, questa è Tatiana Basilio del Movimento 5 Stelle. Gli altri partiti, intanto è rispuntato Bersani. Bersani ha detto in una prima intervista, dopo insomma la mancata conquista di Palazzo Chigi, a Ballarò è riapparso e ha detto: una smacchiatina a Berlusconi gliel'abbiamo data, basta con questo sconfittismo del centrosinistra. Bersani ritorna alla domanda esplicita su Renzi, risponde Bersani: abbiamo un ottimo premier, Enrico Letta, e dobbiamo governare, non si scappa dalle nostre responsabilità. E Renzi in qualche modo risponde, non a Bersani, ma a Renzi, quindi un po' bacchettato da Bersani: Renzi è il nuovo, abbiamo Enrico Letta. Renzi invece fa una nuova apertura al Movimento 5 Stelle, intervistato dal Messaggero: Movimento 5 Stelle, ora lavoriamo insieme. il governo non tiri a campare. Intanto Renzi, che è sempre considerato uno che vede il bicchiere mezzo vuoto anche nel PD, dice no, stavolta diciamolo, lo abbiamo vinto, è vero, però è come una squadra che vince 1-0 giocando col catenaccio, e ripeto con forza, conta anche il bel gioco. Però stavolta bisogna dirlo, il centrosinistra oggettivamente ha vinto, e arrivo a dire che è andata molto bene. Poi nell'intervista di Barbara Yerkov, ecco l'apertura al Movimento 5 Stelle, dice il sindaco di Firenze: io avevo previsto già mesi fa, si spaccheranno molto rapidamente, c'è una parte del 5 Stelle che giustamente vuole ragionare con noi, e le riforme sono il terreno su cui possiamo sfidare Grillo. Grillo ha chiaramente perso le elezioni, volevano dimezzare i parlamentari, l'unica cosa che hanno dimezzato sono i loro voti. Però i temi che Grillo pone, abolizione del finanziamento pubblico, semplificazione istituzionale, non è che siano meno forti di prima. E allora io dico, ragazzi, lavoriamo insieme. Ecco dunque un Renzi che, dopo le sue stoccate e le critiche, però dice apriamoci a Grillo. Dall'altra parte il PDL, silenzio tombale di Berlusconi, che in Sardegna pare Libero addirittura la dipinge così: Silvio stacca il telefono, non vuole parlare con nessuno, secondo il Corriere della Sera è concentrato solo sui suoi processi. Berlusconi per Libero resta in Sardegna un giorno in più, non risponde alle chiamate di chi lo vorrebbe in campo per i ballottaggi, ma la confessione sua raccolta da Libero, almeno raccolta dai quelli che stanno vicino a lui nell'entourage, è: se non mi candido io non esistiamo. Questa sarebbe la sintesi di Silvio Berlusconi. Nel partito torna in discussione Alfano, spunta l'ipotesi di Verdini reggente, il Corriere parla di parole grosse volate anche con Verdini in una riunione, i falchi all'attacco, secondo Repubblica c'è stata una lite tra Verdini e il ministro Quagliariello. Insomma, c'è da dire che se il Movimento 5 Stelle non sorride tutti all'attacco del Movimento 5 Stelle, come sottolinea il Fatto Quotidiano a pagina 6, non è che i partiti tradizionali possano ridere. Il PD ha perso, in un'analisi che fa Chiara Paolin sul Fatto, il 43% del suo elettorato dalle ultime politiche. Il PDL ha dissolto 458.000 voti, un 65% di delusi rispetto alle elezioni del 2008, 163.000 rispetto alle urne di febbraio 2013, sempre sul campione di capoluoghi. Così come non sorride la Lega, e infatti passo sulla Stampa e c'è un'intervista al sindaco di Verona, Flavio Tosi, che inizia l'intervista con Giovanni Cerutti in maniera molto chiara: troppi annunci, non abbiamo portato a casa niente, dice Tosi. Se ci confrontiamo con le amministrative dell'anno scorso, dove eravamo al ballottaggio in 7 città del nord, per la Lega il risultato è un disastro. Tanto che l'intervistatore della Stampa dice: ma viva la sincerità, le ragioni, se non concretizzi non ti votano. Insomma, quindi non è che c'è chi ha vinto e c'è chi ha perso, pare che sia un disastro totale. La Lega è un disastro, il PDL contando i voti è un disastro, il PD certo ha perso molti voti ma ha vinto almeno il primo turno in molte città, il Movimento 5 Stelle ha dimezzato i voti rispetto alle politiche, ma chissà se si possono paragonare. E chi cavolo ha vinto queste elezioni? In genere si diceva che vincevano tutti, stavolta hanno perso tutti. Però in realtà qualcuno poi i sindaci li elegge. Che facciamo? Andiamo al traffico, poi ancora un po' di politica, ma anche l'economia. Ci sono delle novità importanti, soprattutto perché l'Unione Europea ci dà i compitini. Oggi ci dice: uscite dall'infrazione, dalla procedura di infrazione, ma avete 6 compitini da fare a casa. E quando l'Unione Europea dice così, tremate, italiani. E allora, ringrazio quelli che mi mandano i messaggi al 349-238-6666 e mi dicono: qua piove, qua c'è il sole. Anche Giuseppina mi dice che a Modena portano ormai i bambini al planetario per vedere il sole. D'altronde è così. No, chiudo la pagina politica con quella che è diventata ormai una comica. Io sul mio profilo Twitter, che mi invito a seguire, Alino Milan, racconto oggi, tenendo il conto che siamo alla quarta settimana decisiva per la riforma elettorale. E poi uno legge i giornali. Legge elettorale, accordo al ribasso, scintille tra PD e PDL, la Stampa, che è la più ottimista. Il Corriere, riforme, nasce il comitato dei 40. Nessun riferimento alla legge elettorale. Ma come nessun riferimento? Repubblica, legge elettorale, salta il porcellinum. No, salta il porcellinum. Anche Libero, il PD tradisce i patti. Salta il porcellinum. No. L'Unità, riforme, scontro sui ritocchi al porcellum, cioè che sarebbe il porcellinum, non c'è intesa sul nodo porcellum, Il Sole 24 Ore, pagina 14. Mi sa che anche la quarta settimana decisiva scorrerà via senza grandi novità su questo tema. Vabbè, speriamo nella quinta. Passiamo all'economia. Oggi è il giorno importante, come racconta Il Sole 24 Ore con Beda Romano a pagina 6, in cui dopo 4 anni l'Italia dovrebbe finalmente uscire dalla procedura deficit eccessivo, guadagnando i galloni di paese virtuoso. Ma l'Unione Europea accompagnerà questa promozione, diciamo, questa buona notizia per l'Italia, con 6 raccomandazioni. Le raccomandazioni dei compitini a casa, e ricordate la scorsa volta che ci dissero bisogna fare i compiti a casa, successe il disastro, poi crollò il governo Berlusconi, l'arrivo di Monti, eccetera. Eccole le raccomandazioni. La prima dovrebbe riguardare la finanza pubblica. L'esecutivo dovrebbe chiedere all'Italia di rispettare gli obiettivi di medio termine. La seconda raccomandazione, la pubblica amministrazione, che deve diventare più efficiente e meno costosa, a cominciare dalla giustizia civile. Una terza raccomandazione relativa al sistema bancario. L'esecutivo comunitario chiederebbe un miglioramento della gestione e della selezione degli attivi bancari, la promozione di alternativi mercati nel capitale. Quarta raccomandazione, la Commissione dovrebbe mettere l'accento sul mercato del lavoro e la necessità di promuovere la partecipazione di donne e giovani, migliorare la formazione, modernizzare i servizi di sostegno all'impiego, rafforzare la contrattazione di secondo livello. Quinta raccomandazione, dovrebbe essere dedicata all'importanza di lottare contro evasione fiscale e economia sommersa. E poi la sesta me la sono persa. Comunque, oh! Sono queste 5 raccomandazioni, cioè i compitini dell'Unione Europea sarebbero: cari italiani, rifate l'Italia. Ecco, queste sono le 6 raccomandazioni che dovremmo rispettare per anche diciamo accontentare l'Unione Europea, che oggi sancisce il fatto che l'Italia esca dalla procedura di infrazione. Queste 6 raccomandazioncine: riformare giustizia, pubblica amministrazione, lavoro più efficiente, le banche più efficiente, l'evasione fiscale, lotta al sommerso, e poi cosa hanno detto? Vabbè, insomma, queste cose qui ce n'è per sistemare un paese. In tutto questo c'è una frenata sul possibile blocco dell'aumento dell'IVA. Ecco, l'ho detto in maniera contorta, ma sta di fatto che il succo invece più semplice è che il ministro Saccomanni, alla domanda "si riesce a scongiurare l'aumento dell'IVA previsto a luglio?", risponde così: prima pensiamo agli investimenti, poi al blocco dell'IVA. Che insomma, a distanza di un mese circa dal previsto aumento dell'IVA, sembra portare a non grande ottimismo sulla possibilità di reperire quei 2 miliardi che dovrebbero essere reperiti per scongiurare il blocco dell'IVA. Dobbiamo concentrarci sugli investimenti, così il ministro dell'economia Saccomanni, come racconta Mario Sensini sul Corriere della Sera pagina 15. La Commissione Europea oggi proporrà di chiudere questa procedura sul deficit, ma il tema dell'aumento dell'IVA è un tema che rimane ovviamente in primo piano. Anche per l'Unità, lo stop all'aumento dell'IVA, Saccomanni frena, questo è il titolo con l'articolo di Bianca Di Giovanni a pagina 9. Per il ministro è meglio pensare agli investimenti. Oggi è una giornata importante anche per quel che riguarda l'ILVA. La questione industriale, il caso Taranto, a pagina 2-3 del Sole 24 Ore. Il governo è diviso sul commissario ad acta, 2 le ipotesi sul tavolo per l'ambiente e la gestione aziendale. Effettivamente Palazzo Chigi conferma, la situazione è intricatissima e si vedrà come si risolverà. Io voglio chiudere solo con un accenno a un bel articolo che Beatrice Borromeo scrive sul Fatto Quotidiano a pagina 16. È andata a intervistare l'avvocato di Rosaria Aprea, è quella ragazza che è stata picchiata selvaggiamente dal fidanzato, ha subito anche l'asportazione della milza, ma dice ora torno dal fidanzato. È un articolo incredibile, un'intervista all'avvocato che ha deciso di rinunciare all'incarico di difendere Rosaria Prea perché dice è convinta che il fidanzato si sarebbe fermato prima di quanto ha fatto invece quel ragazzo che ha bruciato viva Fabiana. Antonio non mi avrebbe dato fuoco, così dice l'avvocato, e quindi vuole tornare da lui. Nonostante sia stata dimessa dall'ospedale con una cicatrice che va dal seno alla pancia, le hanno asportato la milza, non ha più l'ombelico, si è sopravvissuta solo perché è molto sana. Non era la prima volta che il fidanzato la picchiava e l'ho avvertita. Quando tornerà sarà ancora più aggressivo, ma lei ha deciso, no, posso redimerlo. Ecco, leggete questa intervista a pagina 16 del Fatto Quotidiano perché racconta davvero tantissimo. 24 mattino. Siamo qui alle 8 e 16 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, cari italiani, cari ascoltatori, siete uno del milione e mezzo di persone, questa è una stima più o meno, del milione e mezzo di persone che svapano, cioè di quelli che sono passati dalla sigaretta tradizionale alla sigaretta elettronica. Avete abbandonato il tabacco per questa nuova via? Ripeto, la stima è un milione e mezzo di italiani, ci sono nuovi punti vendita ovunque, una grande città come Milano, io vedo ogni volta che mi giro trovo un nuovo punto vendita di questi nuovi aggeggi. Allora, mettetevi l'animo in pace perché arriva, vedrete che arriva. Che cosa arriva? La tassa ovviamente, una nuova tassa, è chiaro, ovvio, no? Ci hanno provato a novembre nel decreto sviluppo, ci hanno provato a dicembre nella legge di stabilità, ci hanno provato con un emendamento al decreto sui debiti della pubblica amministrazione in un provvedimento più ampio qualche giorno fa, poi tutto stralciato, ma vedrete che prima o poi, questione di giorni, arriva, anche perché la questione è molto semplice. Ci sono coloro che dicono è giusto, molti abbandonano la sigaretta e quindi il tabacco tradizionale su cui si paga l'accisa, su cui si pagano le tasse, per andare alla sigaretta elettronica, e questo crea un ammanco nelle casse dello Stato. Altri dicono ma no, ma basta una nuova tassa, appena lo Stato vede un bene di consumo su cui gli italiani si fiondano, ecco che se si trova il modo per piazzare una nuova tassa, pam, lo Stato lo fa subito. Che ne pensate? 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi, ma soprattutto chiamate 800-24-0024, ci interessa molto oggi l'opinione vostra. Voglio salutare l'onorevole Maurizio Bernardo del Popolo della Libertà, siede in Commissione Finanze. Buongiorno Bernardo. Buongiorno. E benvenuto. Buongiorno. Tra l'altro lei è uno dei due autori, voi eravate i relatori, lei è l'onorevole Causi, di questo provvedimento sulla pubblica amministrazione, nel quale è comparso e poi scomparso l'emendamento che prevedeva questa tassa. Esatto. Voglio salutare anche Carlo Stagnaro, che è dell'Istituto Bruno Leoni, con noi. Buongiorno e ben ritrovato Stagnaro, eccoci. Buongiorno. Allora Bernardo, arriva questa tassa? Arriva, io dico così, arriverà questa tassa, è vero? Ma devo dire che se ne sta parlando da diverso tempo, e l'idea che è maturata, ma togliendolo dal decreto pagamento della pubblica amministrazione, perché non sembrava tra l'altro il momento più opportuno, dato che lo spirito era quello di dare respiro e ossigeno alle aziende, di non immaginare di tassare, quindi di mettere un'ulteriore tassa. Credo che su una serie di ragionamenti, così come riguardano i tabacchi in generale, il gioco, anche la sigaretta elettronica, possa rientrare in una tipologia che ci porti anche a poter mettere l'accisa. Tenga conto che il calo dei consumi delle sigarette corrisponde a cifre significative per le casse dello Stato e quindi per iniziative che poi lo Stato può realizzare a favore dei cittadini. Sì. Quindi lei dice a logica, in fondo, quelli che passano alla sigaretta elettronica sono soprattutto quelli che abbandonano la sigaretta, cioè è difficile pensare, non so se si possa quantificare, quante persone inizino a svapare direttamente, la maggior parte sono persone che abbandonano il tabacco tradizionale, e quindi forse a logica lei dice, visto che si pagava la tassa di là, allora facciamola pagare anche di qua. Parliamo, diciamo, di un piccolo vizio, per quanto la mia esperienza non faccia test, ma io non ho mai fumato e non ho immaginato di iniziare a fumare la sigaretta elettronica, quindi quello che noto girando oppure anche tra amici è che chi ha fumato le sigarette oggi si è portato nel voler smettere a utilizzare quindi la una forma nuova, più leggera. Questo però è un punto dirimente, ma non è tanto il tema della nostra trasmissione, però il punto dirimente è che cosa sia la sigaretta elettronica. Se è un prodotto da fumo e quindi fa male, allora si può pensare di mettere una tassa. Se fosse un dispositivo medico, ma qui c'è un dibattito e quindi in questo caso, ma la faranno rientrare come un qualcosa di un prodotto da fumo, no? Vero Bernardo? State facendo di tutto per definirlo così e quindi tassarlo. Ma no, diciamo non di tutto, però una seconda ragione per cui abbiamo pensato di ritirare quella forma di copertura al decreto della scorsa settimana andava anche nella direzione di coinvolgere il Ministero della Salute, quindi il Ministro Lorenzin, anche perché su questo argomento, che è un argomento delicato al di là di alcuni prodotti che possono arrivare da altri paesi, visto che purtroppo d'attualità alcune esperienze che provengono dalla Cina. Ma tolto quello che l'esempio diciamo, portato all'eccesso, una regolamentazione del sistema e allo stesso tempo un momento in cui venga definito proprio sul tema della salute, quindi dell'attenzione riguardo ai cittadini italiani, che cosa contenga davvero la sigaretta elettronica e quale sia l'influenza sulla salute. Beh, questo è un aspetto sicuramente importante, cioè capire se questa sigaretta elettronica ha dei gradi di nocività per la salute. Però il concetto è questo, e vorrei introdurre Carlo Stagnaro, come ricorda direttore di ricerca e studio dell'Istituto Bruno Leoni. Allora, Stagnaro, qui si potrebbe. Ovviamente un nemico delle tasse come Stagnaro e come sono all'Istituto Bruno Leoni, subito no? Tuonerà basta tasse, però qui c'è una questione di logica anche, se si vuole pensare che molti abbandonano la sigaretta e passano alla sigaretta elettronica e quindi c'è un ammanco di soldi per lo Stato. Stagnaro, come se ne esce da questa situazione? Mettendo una tassa, spostandola da qua a là? Ma l'ultima volta che ho controllato l'obiettivo della politica era scoraggiare il fumo, mentre mi pare che oggi stiamo parlando di scoraggiare l'abbandono del tabagismo. E questo è qualcosa che in qualche maniera mi lascia estremamente perplesso a dir poco. Il senso delle tasse sulle sigarette è quello di far pagare al fumatore tutti i costi privati e sociali che la sua abitudine produce. Molto probabilmente le tasse sulle sigarette sono perfino esagerate rispetto ai costi reali, altrimenti non ci porremmo questo problema, perché la gente smette di fumare, produce meno costi e quindi c'è meno bisogno dei soldi delle loro tasse. Ma lasciamo perdere questo aspetto. Il senso dell'accisa sulla sigaretta è questo: se io smetto di fumare la sigaretta e inizio a svapare o a fare altre attività, presumibilmente questo tipo di costi vengono meno, io mi ammalerò meno, non avrò tutti i problemi che possono essere correlati a un uso eccessivo del tabacco, determinerò meno costi agli altri che vengono esposti al fumo passivo. E di conseguenza viene meno la ratio, la logica stessa della tassa, non c'è una ragione logica, una ragione razionale per cui un prodotto che non produce costi sociali noti, se poi verranno fuori degli studi che mostreranno che anche la sigaretta elettronica o alcune delle boccette utilizzate nella sigaretta elettronica possono essere dannose per la salute, sarà un altro discorso. Quindi si passa da lì, secondo lei? Cioè, prima bisogna dare questo, bisogna dimostrare questa cosa, perché non avendo costi sociali, altrimenti sarebbe come dire lo Stato semplicemente arrabbiato perché gli viene un ammanco di tasse, dice no, come facciamo? Ci troviamo con meno soldi perché la gente abbandona le sigarette, bisogna subito trovare un modo di recuperare quello che i cittadini non ci portano più. Io non mi permetterei mai neppure di sospettare che le tasse servano a generare gettito e non a produrre il bene sociale, però, come dire, questa discussione forse qualche minimo dubbio lo fa sorgere. Sì. Però il concetto, Stagnaro, è di logicità, cioè di collegamento tra chi abbandona la sigaretta e passa alla sigaretta elettronica è abbastanza ovvio. Al di là di quelle che sono le considerazioni effettivamente faccia bene faccia male, è chiaro che chi abbraccia il mondo della sigaretta sigaretta elettronica vuol dire che ha lasciato il mondo della sigaretta tradizionale, no? E quindi sarebbe logicamente un pensiero attribuire la tassa di qua a metterla di là. Beh, no, ripeto, a noi negli ultimi almeno 20 anni è stato detto che bisognava aumentare le tasse sulle sigarette per convincere la gente a smettere. Sì. E se spostiamo la tassa vuol dire che l'obiettivo non era farci smettere. Mm. L'obiettivo sì, era prenderci farci dei soldi. Sì. È un pochino. Beh, ma guarda che è quello che pensano molti, non è che Bernardo. Ma io non mi permetterei mai, ripeto. No, no, sì, okay. Sì. Però insomma. Beh, non hai neanche dell'idea che le tasse sono bellissime perché bisogna pagarle perché così abbiamo gli asili nido efficienti, no? Non penso che Stagnaro è di quella linea lì, no? Padua schioppiana, come possiamo definirle, no? No, guardi, se le tasse fossero bellissime non servirebbero Equitalia e l'Agenzia delle Entrate che ti pignorano il televisore se non le paghi. Mm. Correremo tutti a versarle spontaneamente, anzi di più. Però effettivamente, onorevole Bernardo, insomma, ci avete raccontato, o meglio la politica, lo Stato ci ha raccontato che si mettevano le tasse per cercare di dissuadere le persone a fumare, così costavano tanto, adesso sembra che il timore dello Stato è che la gente abbandoni la sigaretta tradizionale e quindi creando dei problemi alle casse dello Stato, come dire, fumate di più cittadini per carità, perché sennò abbiamo bisogno di soldi in questo momento poi. No, devo dire che a parte il tema delle entrate, come dicevo, a parte la formazione a cui appartengo, quindi al PDL, dove sul tema delle tasse ovviamente, ma così come anche le altre formazioni che sono al governo oggi, su questo argomento ovviamente si ha una politica di ridurle, non di metterne di nuove, il fatto stesso che abbiamo immaginato di bloccare questa copertura in un momento in cui comunque avremmo potuto mantenerla era perché anche l'intervento e il ruolo del Ministero della Salute svolgesse un ruolo attivo, quindi la cosa che io credo vada verificata prontamente è qual è il rischio tra virgolette del ricorso alla sigaretta elettronica. Non sì. Dimentichiamo che in queste fialette, in queste ricariche comunque c'è una parte di nicotina, da quello che mi è stato spiegato incontrando anche dei produttori, che la persona passi da tra virgolette un vizio che è l'utilizzo della sigaretta normale a quella elettronica che potremmo considerare anche un rischio, infatti il deterrente della CISA soprattutto per i tabacchi e più specificatamente sigari o sigarette porterebbe quindi lo Stato italiano a voler prevenire e a fungere deterrente. Esatto, quello che si diceva. Una parte è legata a un quantitativo, seppur minimo, di nicotina. E quindi questo no, il punto sarebbe questo. Il gancio sarebbe quello per giustificare una tassa. Stagnaro, ci sono dei calcoli, non so se li avete fatti, su quanto sarebbe l'ammanco dello Stato che perde perché la gente, molta gente, devo dire, forse smette di fumare anche per la crisi, cioè quelli che proprio non sono legati alla sigaretta hanno detto vabbè, io rinuncio, visto che devo rinunciare a qualcosa, rinuncio anche al pacchetto di sigarette e non fumo nient'altro. Non passo neanche a svapare perché non posso permettermi di pagare più le sigarette. C'è una sorta di. C'è qualche cifra che possiamo dare su quello che potrebbe essere l'introito mancato dello Stato in questo momento? Ma le minori entrate derivanti dalle minori accise pagate dipendono naturalmente dal rapporto, che non è facilissimo stimare, tra quante sigarette in meno vengono fumate per fumare in più quante sigarette elettroniche. Però siamo comunque nell'arco di cifre importanti, insomma sicuramente nell'ordine superiore al miliardo di euro, sì. Però ancora una volta il punto essenziale è c'è le tasse devono essere giustificate, cioè che uno si sveglia al mattino e dice ma mi viene meno una tassa dalla fonte A e quindi ne metto una. Ma il gancio, l'ha detto Bernardo, è quello, cioè si stabilirà se hanno un tasso di nocività per le persone e quindi a quel punto si mette la tassa per disincentivare. E poi... Esatto, però come dire, in prima elementare si imparano i tempi verbali, si stabilirà e quindi si metterà, non si mette e poi si stabilirà. perché altrimenti usciamo completamente dal solco della civiltà giuridica occidentale, sì, e entriamo in un'altra roba. Beh, infatti per ora la tassa non c'è, però ci hanno provato, effettivamente se fosse passata sarebbe stata introdotta prima di dimostrare l'effettiva nocività. Facciamo così, fermiamoci per la pubblicità. Io ho trovato anche questa cifra di 700 milioni, secondo i monopoli nel 2013 lo Stato incasserà 700 milioni di euro in meno per la gente che ha abbandonato la sigaretta, e quindi questi 700 milioni allo Stato mancano. E quindi che fare? 24 mattino. Eccoci qua, allora le 8:35 minuti, allora 800 24 00 24, stiamo parlando di questa idea di tassare le sigarette elettroniche perché molti italiani abbandonano la sigaretta tradizionale, sono passati a svapare, e devo dire che anche molti messaggi sono più dalla parte di Stagnaro, l'antitasse rispetto a Bernardo l'abbiamo un po' messa in mezzo, qua l'emblema oggi della politica che ci vuole succhiare il sangue, diciamo la verità. No, molti effettivamente segnalano, per esempio, ma pensate a quanti soldi vengono risparmiati nel campo della sanità per la gente che abbandona il tabacco tradizionale, per tutte le malattie correlate al tabagismo. Se molta gente smette di fumare, la sanità pubblica o privata ne avrà un beneficio, no? Perché non costeranno alle casse dello Stato tutte le malattie relative al tabagismo. Quindi questo potrebbe essere una buona cosa, e nonostante ciò si pensa alla tassa. Io voglio salutare anche Massimiliano Mancini, buongiorno e benvenuto Presidente. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Associazione Nazionale Fumo Elettronico, ANAFE, che nasce nel 2012, sono le adesioni, no, le aziende operanti nella produzione e distribuzione di questo nuovo mercato. Corretto. Allora voi ovviamente la vedete come come il vapore negli occhi questa tassa. Questa, vabbè, è ovvio. Perché però non bisognerebbe tassarvi? Dunque, io penso che ormai il dottor Stagnaro ha ben evidenziato tutti i punti che sono relativi alla tassazione, e quindi quale sarebbe lo scarso senso di una tassazione di questo nuovo prodotto. Anche se io recentemente in una trasmissione avevo detto che per sopravvivere questo mercato deve essere tassato, si può ragionare, perché il problema attuale è che la sigaretta elettronica, che va a toccare altri interessi consolidati, è sotto attacco mediatico, perché non passa giorno che su qualche rivista o giornale o TV se ne parla in maniera più o meno negativa, e conseguentemente questo sicuramente non aiuta alla diffusione di questa tecnologia, che è una tecnologia rivoluzionaria, perché io la paragono a quello che è avvenuto alla fine degli anni 90 con l'avvento della musica digitale, quando la musica è passata da essere fruita da CD fisici a la possibilità di essere scaricata online. Beh, addirittura. Quindi, però non si sta parlando sempre di un vizio? Allora, noi diciamo che qui si trasforma il vizio in passione, nel senso che l'informazione che ormai è data sul tabacco, sul fumo e sui danni è ben conosciuta, quindi conseguentemente chi ora fuma lo fa in maniera consapevole, perché sa quali sono i rischi quali va incontro. Quindi trasformare il vizio in una passione, perché il fumo elettronico può diventare questo, è un passaggio a mio avviso socialmente molto importante, perché si offre un prodotto che ha una ridotta tossicità, quasi nulla nocività rispetto alle sigarette tradizionali. E non è vero che non ci sono studi, perché a livello globale ve ne sono parecchi, mancano ancora gli imprimatur degli stati o di enti sovranazionali. Però la bibliografia ormai si sta accumulando, e sostanzialmente si sta andando ad indicare che questo è un prodotto che ha una bassissima nocività. Ma quindi lei come la vede? Cioè, come uno stato, quasi uno stato etico, o se fosse nel gioco lo stato biscazziere che cerca tutti i modi per recuperare dei soldi? Allora, il problema è che dei soldi da manco del bilancio sono dovuti ovviamente a tanti aspetti, che sono dati magari spesso da una cattiva gestione, da spese sbagliate in determinati settori, da costi troppo alti in altri. Ovviamente chi fa i conti vede che perde del denaro. Oggettivamente questa manco c'è, perché la gente... Questa manco c'è, però come è stato sottolineato anche da molti ascoltatori, non va dimenticato il fatto che è vero che mancano ancora studi di lungo termine, come del resto studi di lungo termine mancano anche per molti farmaci in commercio, ma qui sicuramente siamo in un campo dove il passaggio dal fumo tradizionale al fumo elettronico sicuramente farà ammalare meno gente. Sì, farà risparmiare la sanità, questo sì. Notevolmente. No, quindi, ma certo. Quindi... Allora, mi faccia sentire un ascoltatore, poi torno all'onorevole Bernardo e Carlo Stagnaro. Alberto dalla provincia di Alessandria. Alberto, buongiorno. Sì, buongiorno, dottor Milan, a lei e agli ospiti. Senta, io volevo fare un'introduzione un po' particolare, nel senso che a me sembra che questo, più che una tassa, sia un pizzo di Stato. Lo Stato ha visto che c'è un business e subito ci si fionda sopra. Un pizzo addirittura, un pizzo di Stato. Secondo me è un pizzo di Stato, perché vede che c'è un business e se ne fionda sopra. Vabbè, guardi. Né più né meno come le macchine che da gioco. Sì. Vediamo, è una visione molto, si è capito, perché poi il cellulare sta un po' viaggiando, immagino, comunque abbiamo capito. Ha sentito, onorevole Bernardo, un pizzo di Stato, cioè, qua venite dipinti come quelli che cercate veramente di succhiarci il sangue. Devo dire che come principio, francamente, vorremmo, in un momento di crisi che tocca ovviamente anche i conti dello Stato, non doverci cimentare in nuove tasse, capendo comunque come, rispetto ad iniziative importanti e all'interesse del rilancio del nostro paese, si possa ovviamente fare. Ma allora mi scusi, però perché ci avete provato? Cioè, perché ad esempio è spuntato questo emendamento nel provvedimento sulla pubblica amministrazione, che quindi non c'entrava neanche nulla, e tra l'altro se fosse stato approvato sarebbe entrata in vigore la tassa prima di dimostrare la tossicità del prodotto, e quindi cade un po' il legame di cui si parlava prima, cioè tassare per disincentivare, una cosa che non si sa se fa bene o male. No, e tant'è che poi il risultato è stato che in un primo momento questo è stato il pensiero, cercando tra l'altro di immaginare questa copertura come anche altre che poi riguarderanno 2014-2015, poi in una riflessione diciamo tra causi e il scritto vi siete abbiamo reso conto di doverla ritirare. Ma chi l'aveva messo? Di chi era questo emendamento? Ce lo dica. Chi è che ha spinto per mettere questo emendamento? Chi è che lo voleva fare? Io credo che sia andata nella direzione di una valutazione legata al tema e alla diminuzione del consumo di tabacchi, immaginando anche in una buona fede che anche la sigaretta elettronica comunque potesse incidere sulla salute. Vabbè, ho capito, ma chi l'ha voluto? Cioè, non c'è un nome di chi ha spinto per questo emendamento, perché voi siete i relatori. Prego. No, voi siete i relatori, ma c'è qualcuno più di altri che dice mettiamo questa tassa, ci vuole subito questa tassa? Devo dire che adesso io ammetto che trovare il colpevole mi risulta difficile. È dato vero che al momento questa tassa non è stata posta né nel decreto della settimana scorsa né nell'immediato, e tant'è che anche il coinvolgimento, ma lo diceva anche il presidente di Anafe Mancini, che ci sia anche una legittimazione formale di carattere scientifico, visto che illustri professori universitari nel campo della medicina si sono espressi chi a favore e chi contro. Sì. Prima stabiliamo. Lo so, però non so, Stagnaro, la questione è che prima stabiliamo, però ci hanno un po' provato. Poi i giornali ovviamente hanno tirato fuori questa vicenda, cioè attenzione, arriva la tassa sulla sigaretta elettronica, e allora hanno un po', no? La possiamo leggere così, hanno un po' per il momento frenato. Per una volta i giornali, l'opinione pubblica ha fatto il proprio lavoro. Sì, ma non si preoccupi, perché tanto, come dire, lo trovano il metodo, sì, è chiaro. Dobbiamo, aspettano che la guardia si abbassi un attimo e zac, la piazza. Come diceva quello, la differenza tra la morte e le tasse è che la morte non peggiora tutte le volte che il Parlamento si riunisce. Ma questa è fantastica. Chi è che l'ha detta, la mia ignoranza? Will Rogers. Com'è che la differenza? Will Rogers. No, la differenza tra la morte e le tasse è che la morte non peggiora tutte le volte che il Parlamento si riunisce. Ma straordinario. Il tema qua mi pare siano due cose. Una che naturalmente non riguarda l'onorevole Bernardo, come dire, che è qui a far da parafulmine. Però anch'io trovo abbastanza stupefacente il fatto che arriva un emendamento e non si riesca a sapere chi ne è l'artefice, chi ne è l'autore. E questo, come dire, dopo sei mesi che tutti i giorni parliamo di trasparenza, pubblicità dei comportamenti, dei nostri rappresentanti. Magari si sa, no? Chi è, magari si sa chi è Stagnaro, ma non, cioè meglio. Beh, non, cioè, peggio mi sento. Non, cioè un emendamento avrà una firma, però magari capisco l'onorevole Bernardo adesso, magari non lo so, magari non vuole dire il nome. Cioè, No, ma non ne faccio un problema l'onorevole Bernardo, cioè è un problema più generale, evidentemente. Chiunque l'abbia proposto non si è messo, non è venuto fuori, non si è fatto fare un'intervista per difendere la sua. Ma poi si sa, questi emendamenti magari li firmano in 15, magari li firmano in 15, in 20, in 30, magari vengono dai gruppi e quindi non tutti firmano e via. Ma sì, tutti firmano, quindi nessuno è responsabile. Più o meno. L'altro tema è quello della, appunto, ancora una volta, da un lato della presente o assente tossicità della sigaretta elettronica, che deve essere dimostrata, e che finché non è dimostrata o finché non è circondata da più che ragionevoli sospetti non giustifica in alcun modo un intervento fiscale. Dall'altro è quanto in questa eventualità la sigaretta elettronica è tossica rispetto alla sigaretta normale. Cioè, noi dobbiamo considerare il fatto che se la gente passa dalla sigaretta tradizionale a quella elettronica, ci saranno tante ragioni, ma una delle tante è indubbiamente il prezzo, soprattutto in un momento di recessione, di certo, minore certo. Se uno va a aumentare subito il prezzo dall'altra parte, si va a compensare. Secondo me li rimandiamo verso il tabacco tradizionale, che presumibilmente è più dannoso della sigaretta elettronica. Sì, questo, e quindi facciamo una cosa che è irrazionale dal punto di vista della politica sanitaria e probabilmente anche dal punto di vista della gestione della spesa. Ma Stagnaro, ma scusi, le faccio una domanda, ma secondo lei uno che fa, mettiamo un funzionario in grisaglia in questo momento, che sta facendo, pensa più a recuperare 700 milioni di euro oggi o alla politica sanitaria del futuro che ci farà risparmiare X perché la gente fuma di meno? No, non c'è dubbio che il funzionario pensi a recuperare 700 milioni di euro oggi. Il problema è che il funzionario fa una proposta, la quale arriva al Parlamento, e il Parlamento deve dire. Ma non sto dicendo che sia giusto, cioè sarebbe meglio che pensasse alla seconda opzione, però purtroppo il tema è questo. No, probabilmente non sarebbe neanche il suo lavoro. Cioè, il funzionario fa bene a pensare a come recuperare 700 milioni di euro, perché lui lavora in un contesto in cui quello è il suo mestiere. Il problema è fare in modo, e non può essere il compito del funzionario, che ci sia bisogno di 700 milioni di euro in meno da spendere, chiaro, cosa che come dire, abbiamo l'imbarazzo della scelta. Ma il partito della spesa pubblica è l'unico partito che vince le elezioni, perdono tutti, ma l'unico che vince è quello. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi l'ultima parte di 24 mattino, gli ascoltatori e i nostri ospiti. Eccoci, vorrei sentire, prima di andare da Mancini, Bernardo Stagnaro, Massimo da Siena. Buongiorno Massimo. Buongiorno, da Pisa e non da Siena. Da Pisa, oh mamma mia, che mamma mia. Io sono toscano. Mi odierà per questo, ma non so, però non gli ho detto che è di Livorno, sarebbe stato peggio. Di Livorno veniva qui con una alabarda e mi trafiggeva subito, da parte a parte. Avrei interrotto la comunicazione e mi sarei offeso tantissimo. Va bene, Massimo, dica. Niente, la mia opinione è molto semplice. Io ritengo che la tassa sul nuovo strumento, su queste macchine, sigarette elettroniche, sia giusta. È giusta, perché? Perché il fumo è un vizio, e come tutti i vizi vanno tassati, e chi ha il vizio deve pagarlo, come un vizio la macchinetta a cui si gioca le slot machine. Anche se non è Massimo accertato in maniera scientifica e provata che faccia lo stesso danno del tabacco tradizionale. Questo è il punto su cui si sta discutendo. Finché non è stabilito questa connessione danni alla salute, non si può applicare il principio che lei dice, cioè tassare un vizio. Ma sicuramente non farà male, io spero. Io non sono un fumatore, non ho mai fumato e spero che non faccia male, però già il fumare in sé per sé, la sigaretta, è un vizio, e quindi è un vizio. E deve essere tassata, e anche questa cosa secondo me deve essere tassata. Va bene, grazie Massimo, l'opinione è chiarissima, grazie. Massimo da Pisa. Allora, Mancini, detto che in Francia, proprio oggi la stampa ne parla, hanno fatto una commissione che dà 28 raccomandazioni, e tra le queste la sigaretta elettronica deve essere trattata come quella vera, dunque divieto di fumare nei luoghi pubblici, divieto di venderla ai minori, stesse regole del tabacco vero. Ecco, in Francia sono orientati a fare questo. Le chiedo, Mancini, secondo lei, perché molti ce lo chiedono, sono quelli che fanno questo emendamento, sono quelli in Parlamento... qualcuno dice anche pagati dalla lobby del tabacco, bisogna poi dimostrarle queste cose, però vede da quelli del tabacco tradizionale una sorta di pressione alla politica perché si tassi voi? Ma io questo non lo credo, bisognerebbe chiederlo a loro, ma non lo credo, però se guardiamo quello che si sta svolgendo a livello globale, noi possiamo vedere che le più grandi aziende che operano nel tabacco sono già operative nel campo del fumo elettronico, perché hanno già acquistato, hanno capito che il business va di là. Esatto, e addirittura le stime economiche danno che nell'arco di 10-15 anni il fumo elettronico possa rappresentare una quota molto molto molto importante del fatturato. Quindi io non credo che le multinazionali del tabacco spingano contro. Del resto questo è stato anche affermato pubblicamente durante una trasmissione in cui abbiamo partecipato insieme, ovvero Sky TG24 con un rappresentante della BAT. Loro hanno detto: noi non vogliamo affondare questo settore. Anche quindi, perché lei dice molte multinazionali si stanno spostando in quel settore. Però guardi, onorevole Bernardo, guardi che non riesco a tener conto dei messaggi che arrivano al 349-238-6666, anche forse in virtù del servizio che hanno fatto le Iene qualche tempo fa con questa assistente parlamentare che accusava soprattutto molti parlamentari di prendere, o molti o tanti o pochi, di prendere soldi, vere e proprie mazzette da parte delle multinazionali e anche delle multinazionali del tabacco, per carità è un'accusa tutta da dimostrare, ma molti dicono così, ecco come nascono questi emendamenti, dai soldi che vi arrivano anche magari in maniera illegale. Bernardo, l'accusa è pesante, quindi deve dare una replica. No, certamente, devo dirle in maniera un po' brutale che se fosse stato così, per quello che mi riguarda come relatore, avendo la possibilità di fare gli emendamenti fino all'ultimo momento, probabilmente quell'emendamento sarebbe rimasto. Quindi mi permetto di dire, per quello che mi riguarda e convinto anche della bontà dell'onorevole Causi, secondo me di tutti quanti, poi quindi andrà provato. Io francamente durante il dibattito, come accade normalmente, mi auguro quanto prima la legge sulle lobby passi anche nel nostro sistema, così si evita l'ipocrisia di vedere fuori dal governo e fuori dalle commissioni le categorie produttive che mandano i loro responsabili per i rapporti con le istituzioni. Devo dire che io non ho incontrato né l'associazione dei tabaccai, né Monopoli né altri. La ragione infatti che ci ha portato, tra l'altro, come dicevo, a immaginare questa copertura, poi peraltro ritirata, quindi andando in senso contrario rispetto a quello che diceva la persona intervistata dalle Iene, e così è stato anche in Senato, e che non ha influito neanche, non è stato un deterrente neanche da parte dei giornali su di noi, anche perché in quei giorni seguivo attentamente in particolare il Sole 24 Ore e quindi quelli economici, ma veniva presentata l'ipotesi di copertura in maniera settica. Sì. Io condivido quello che ha detto la persona di Pisa e non di Siena o di Livorno. Posso evitare che poi ci abbassasse il telefono. In effetti la cosa su cui noi ci stiamo muovendo, e tant'è che ancora non si parla di quel tipo di copertura, è se in maniera provata e scientifica, quindi il Ministero della Salute procura dei danni, avrà istituito, ecco, anche perché io immagino, premetto, che non sono un fumatore, ma se una percentuale di nicotina è contenuta, mi domando se questo possa essere riconducibile quindi al tema dei tabacchi in generale, delle sigarette, e allo stesso tempo se possiamo definire questo, e allora lo Stato secondo me un prodotto dannoso, come deterrente. Certo, e questo bisognerà vederlo, è la premessa, è la filosofia, però molti ascoltatori, ma qui devo chiudere, si chiedono allora perché ci sia tentato prima di introdurre questa tassa. Ma rimaniamo con questa domanda, è Pierluigi che ci scrive via sms: io ho il vizio del caffè, che devo fare? Pago le tasse perché bevo tanti caffè? Non lo so, Pierluigi. Tra un po' tasseranno anche l'aria. Classica battuta demagogica e populista con cui chiudo questa trasmissione. Grazie a tutti. Riascoltate su radio24.it il tutto. Ci troviamo domani alle 6:30. 24 mattino.